Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Il secondo motorista stava ora parlando delle proprie finanze e del proprio coraggio. Chi è ubriaco? Io? Proprio no, capitano. Questo non è giusto. Ormai dovrebbe sapere che con la sua generosità nell'offrire da bere il primo motorista non farebbe ubriacare neanche un passero, per Dio. Io per il bere non ho mai avuto guai in vita mia. La roba che farà ubriacare me non l'hanno ancora fabbricata. Potrei bere fuoco liquido, altro che il suo whisky, e avere la testa fredda come un pezzo di ghiaccio. Se pensassi di essere sbronzo, salterei in mare, la farei finita, per Dio. Sicuro, senza pensarci. Ma io non voglio andarmene dal ponte. Dove pensa che vada a prendere una boccata d'aria in una notte come questa, eh? Sopracoperta, in mezzo a quegli straccioni? Ah, sarà difficile. E io non ho proprio paura di lei. Il tedesco alzò al cielo due grossi pugni e li agitò senza dire una parola. «Io non so cosa sia la paura», continuò il motorista con l'entusiasmo che viene da una sincera convinzione. «Non mi spaventa fare tutto il lavoro peggiore su questa nave schifosa, per Dio. E le va di lusso che ci siamo noi, che non abbiamo paura neanche del diavolo. È un bene per lei e per questa barcaccia, con i suoi piatti che sembrano cartone da imballaggio. Cartone da imballaggio, povero me. A lei va bene, lei ci guadagna dei bei soldi in un modo o nell'altro. Ma io? Io che cosa ci ricavo?» 150 pidocchiosi dollari al mese, va con Dio. Le chiedo rispettosamente, rispettosamente, ben inteso. Chi non manderebbe al diavolo un posto dannato come questo? È pericoloso, accidenti se lo è. Ma io sono di quelli che non hanno paura neanche del diavolo. Lasciò andare la ringhiera e fece ampi gesti nell'aria come per dimostrare forma e dimensioni del suo valore. Lanciando verso il mare lunghi squittii con la sua voce sottile, camminò ripetutamente avanti e indietro in punta di piedi, per dare più enfasi alle sue parole. Quindi piombò di colpo a terra, a testa in avanti, come se lo avessero colpito da dietro con una clava. Nel cadere disse «Maledizione!». Il suo grido fu seguito da un istante di silenzio. Jim e il capitano barcollarono in avanti nello stesso momento, e riprendendosi si rizzarono a guardare con attenzione, sorpresi, la tranquilla superficie del mare. Poi alzarono gli occhi in alto, verso le stelle. Che cosa era avvenuto? Il battito ansimante delle macchine continuava. La terra aveva forse arrestato il suo corso? Non riuscivamo a capire. E all'improvviso, in quel mare calmo, quel cielo senza una nube, apparvero straordinariamente minacciosi nella loro immobilità, come sospesi sull'orlo del precipizio di una catastrofe. Il motorista si rimise in piedi, per crollare di nuovo come un mucchio d'ossa. E quel mucchio disse: «Che cosa c'è?» con la voce ovattata di chi è afflitto da un profondo dolore. Un debole rumore, come di un tuono a una grande distanza che non è quasi neanche un suono ed è poco più di una vibrazione, passò lentamente su di loro, e la nave tremò in risposta, come se quel brontolio provenisse dalle acque profonde. Gli occhi dei due malesi alla ruota sfavillarono verso i due bianchi, ma le loro mani scure rimasero ferme sulle caviglie del timone. Nel suo procedere, l'affilato scafo parve lievitare a poco di qualche centimetro in tutta la sua lunghezza, come se fosse diventato malleabile, per poi ridiscendere, tornando alla precedente rigidità e continuando a fendere la superficie liscia del mare. Si arrestarono le vibrazioni e il debole rumore di tuono cessò di colpo, come se la nave avesse oltrepassato una stretta striscia d'acqua vibrante e d'aria piena di mormorii. Thank you. Circa un mese dopo, quando Jim, rispondendo a domande specifiche, cercò di riferire onestamente la verità della sua esperienza, egli disse, parlando della nave: «Passò sopra la cosa, qualunque essa fosse, con la massima facilità, come un serpente che striscia su un bastone». Era un paragone felice. L'interrogatorio mirava all'accertamento dei fatti e l'inchiesta ufficiale era condotta presso il tribunale di primo grado di un porto orientale. Era in piedi sulla pedana rialzata dei testimoni, con le guance in fiamme, nonostante gli alti e freschi muri dell'aula. Le grandi pale dei punkà oscillavano piano avanti e indietro sopra la sua testa, mentre da sotto lo fissavano molti occhi, occhi che appartenevano a visi scuri, a visi bianchi, a visi rossi, a visi attenti, affascinati, come se tutte quelle persone sedute in file ordinate su strette panche fossero state avvinte dall'incanto della sua voce. Era un tono molto alto e risuonava in maniera allarmante anche alle sue orecchie, ed era l'unico rumore al mondo che si potesse udire, perché i quesiti terribilmente precisi che gli estorcevano quelle risposte sembravano prendergli forma nell'angoscia e nel dolore del petto. Gli arrivavano addosso improvvisi e silenziosi, come gli spietati interrogativi della coscienza. «Avendo concluso che avevate urtato contro qualcosa che galleggiava appena sotto la superficie, per esempio un relitto pieno d'acqua, le fu ordinato dal capitano di andare a prua ad accertare se ci fossero danni. Lei pensava che fosse avvenuto proprio questo, a giudicare dalla violenza del colpo?» chiese il perito seduto a sinistra. Aveva un filo sottile di barba, zigomi sporgenti e con i gomiti sul tavolo e intrecciate le mani vigorose davanti al viso, guardava Jim con i suoi pensosi occhi azzurri. L'altro, un uomo pesante dall'aria sprezzante, che si era appoggiato allo schienale della sedia con il braccio sinistro disteso in avanti, tambureggiava su una carta assorbente con la punta delle dita. Al centro il magistrato, con la schiena eretta sulla sua spaziosa sedia con braccioli e la testa leggermente inclinata da una parte, teneva le braccia conserte. In un vaso di vetro accanto alla boccetta dell'inchiostro vi erano dei fiori. «No!» disse Jim. «Mi fu detto di non avvertire nessuno per evitare che ci fosse panico. Pensai che fosse una precauzione ragionevole. Presi una delle lampade appese sotto i tendoni e andai a prua. Aperto il boccaporto della paratia, sentii rumori d'acqua. Abbassai la lampada per tutta la lunghezza della cima e vidi che il vano della prua era già pieno d'acqua per metà. Allora capii che ci doveva essere una falla al di sotto della linea di galleggiamento». Fece una pausa. «Sì», disse il perito più grosso, sorridendo in modo vago alla carta assorbente. Continuava a giocherellare con le dita, picchiettando la carta senza fare rumore. «In quel momento non pensai al pericolo. Forse rimasi un po' sorpreso. Tutto avvenne in una maniera così tranquilla e inattesa. Sapevo che nella nave non c'era nessun'altra paratia, tranne quella che separava il vano di prua dalla stiva. Tornai ad avvertire il capitano. Incontrai il secondo motorista, che si stava rialzando ai piedi della scaletta del ponte. Sembrava scosso. Mi disse che doveva essersi rotto il braccio sinistro. Scendendo era scivolato dall'ultimo gradino in alto, mentre io ero a prua. Esclamò: "Mio Dio, quella paratia marcia cederà in un attimo e questa dannata barca ci sprofonderà sotto i piedi come un pezzo di piombo". Mi spinse con il braccio destro e salì di corsa con la scaletta prima di me, urlando mentre si arrampicava. Teneva il braccio sinistro ciondoloni. Lo seguì in tempo per vedere il capitano scagliarsi contro di lui e farlo cadere disteso sulla schiena. Poi gli si buttò addosso. Smise di colpirlo e gli parlò con voce bassa ma irata. Immagino che gli chiedesse perché diavolo non andasse a fermare le macchine invece di stare a piagnucolare sul ponte. Sentì che gli diceva: "Alzati, corri, vola!" E bestemmiò anche. Il motorista scivolò giù per la scaletta di dritta e, superando lo steriggio, si precipitò alla cappa di boccaporto della sala macchine, che era a sinistra. Correva e si lamentava. Fra una risposta e l'altra, gli occhi di Jim si soffermarono su un bianco che sedeva staccato dagli altri, stanco e rabbuiato in viso, ma con occhi calmi, che guardavano diritto davanti a loro e avevano un'espressione schietta e interessata. Jim rispose a un'altra domanda ed ebbe la tentazione di gridare: «Ma che c'entra questo? Che c'entra?» Batté leggermente il piede, si morse il labbro e alzò lo sguardo oltre le teste dei presenti. Incontrò gli occhi del bianco. Lo sguardo diretto verso di lui non aveva l'espressione stupida degli altri. Era un atto di volontà intelligente. Nell'intervallo fra due domande, Jim si estraniò al punto di riuscire a trovare il tempo di formulare un pensiero. «Quest'uomo», questo era il pensiero, «mi guarda come se vedesse qualcuno o qualcosa alle mie spalle». Si era già imbattuto in lui, forse in strada. Era certo di non avergli mai parlato. Da giorni, da molti giorni, non parlava con nessuno, ma manteneva un silenzioso, incoerente e interminabile colloquio con se stesso, come un prigioniero solo nella sua cella o un viaggiatore sperduto nel deserto. Anche se in quel momento stava rispondendo a domande che non avevano alcun senso, pur essendo pertinenti, pensava che forse non avrebbe più parlato in vita sua. Il suono delle proprie veritiere dichiarazioni confermò la sua solida opinione che la parola non gli sarebbe più servita. L'uomo laggiù sembrava consapevole di questa sua disperata difficoltà. Jim lo guardò e quindi volse risolutamente gli occhi altrove, quasi come per un congedo definitivo. E più tardi, molte volte, in remote parti del mondo, Marlo si mostrò disposto a ricordare Jim, a ricordarlo diffusamente, in dettaglio e ad alta voce. Magari ciò accadeva dopo cena in una veranda circondata da una cortina di fronde immobile incoronata da fiori, nella cupa oscurità picchiettata dalle punte incandescenti dei sigari. Le allungate sagome delle sedie di bambù accoglievano ciascuna un ascoltatore silenzioso. Di quando in quando una fiammella rossa si muoveva improvvisamente e ingrandendosi illuminava le dita di una languida mano e parte di un volto in profondo riposo. Oppure gettava un bagliore cremisi su occhi pensosi, coperti dall'ombra di un frammento di una fronte serena, e alle primissime parole del racconto il corpo di Marlo, perfettamente a suo agio nella sedia, assumeva un'immobilità quasi assoluta, come se il suo spirito fosse volato indietro nel tempo e stesse parlando attraverso le sue labbra dal passato. È abbastanza facile parlare del signor Jim dopo un lauto pasto a una settantina di metri sul livello del mare, con una scatola di buoni sigari a portata di mano in una bella serata fresca, con un cielo pieno di stelle che farebbe dimenticare persino ai migliori di noi che siamo qui solo per soffrire e che dobbiamo trovare la strada fra luci incrociate, facendo attenzione a non perdere minuti preziosi e a non fare passi irrimediabili, fiduciosi di venirne fuori bene alla fine, ma non sicurissimi di riuscirci dopo tutto, e con scarse probabilità di ricevere aiuto da quelli che ci stanno accanto. Naturalmente qua e là ci sono uomini per i quali tutta la vita non è che un dopo cena con un sigaro. Comodo, piacevole, vuoto, magari allietato da qualche racconto drammatico da dimenticare prima di arrivare all'epilogo. Ecco, prima di arrivare all'epilogo, ammesso che un epilogo ci sia. Thank you. fu all'inchiesta che il mio sguardo incontrò il suo per la prima volta. Dovete sapere che a queste sedute erano presenti tutti coloro che in un modo o nell'altro avevano a che fare con il mare, perché la faccenda aveva avuto un'enorme risonanza per parecchi giorni, fin da quando era arrivato da Aden quel misterioso cablogramma che aveva creato grande scalpore. Dico misterioso perché in un certo senso lo era, benché comunicasse un nudo fatto, più o meno nudo o brutto di qualunque altro fatto. Al porto non si parlava d'altro. La prima cosa che sentì la mattina attraverso il tramezzo, mentre mi vestivo in cabina, fu il mio Dubash Parsi, che nella dispensa discuteva del Patna con il cambusiere, bevendo una tazza di tè che questi gli aveva concesso come favore. Appena a terra incontrai dei conoscenti e la loro prima frase fu: «Ha mai sentito una cosa come questa?» Seguita, a seconda del tipo, da un sorriso cinico, da uno sguardo triste, oppure da una o due imprecazioni. Uomini che non si conoscevano affatto iniziavano a conversare fra loro solo per poter dire la propria opinione su quella faccenda. Qualsiasi stupido perdigiorno cittadino si fermava a bere e a chiacchierare della cosa. Se ne sentiva parlare negli uffici del porto, presso i mediatori, gli agenti, dai bianchi, dagli indigeni, dai meticci, addirittura dal barcaiolo mezzo nudo che salendo incontravi accovacciato sugli scalini di pietra, per Giove. Si udivano commenti indignati, non poche battute di spirito e discussioni senza fine su cosa ne fosse stato di loro. Tutto questo continuò per un paio di settimane o più, e l'opinione che questa vicenda misteriosa avrebbe finito per trasformarsi in tragedia stava cominciando a prevalere, quando una bella mattina, mentre stavo all'ombra sugli scalini degli uffici portuali, scorsi quattro uomini arrivare verso di me lungo la banchina. Mi chiesi per un po' da dove fosse saltato fuori quello strano gruppo, quando all'improvviso, si può dire, gridai a me stesso: «Sono loro!» Il terzo era un giovane alto e robusto, con le spalle larghe, che teneva le mani in tasca e voltava la schiena agli altri due, che sembravano impegnati in una fitta conversazione. Scrutava la distesa vuota del lungomare. Uno sgangherato Garry, tutto impolverato e coperto da veneziane, si fermò a poca distanza dal gruppo, e il conducente, sollevato sul ginocchio sinistro il piede destro, si immerse in un attento esame delle dita. Senza fare alcun movimento, neppure per piegare la testa, il giovane teneva gli occhi fissi alla luce del sole. Fu questo il mio primo incontro con Jim. Pareva indifferente e inavvicinabile, come possono esserlo solo i giovani. Restava lì in piedi, con la sua bella figura, con la sua bella faccia, saldo sulle gambe, un ragazzo promettente, come raramente se ne vedono. E guardandolo, sapendo tutto ciò che anche lui sapeva, e magari qualcosa di più, provai una grande rabbia, come se lo avessi sorpreso a cercare di estorcermi un favore con mezzi fraudolenti. Non era giusto che avesse un aspetto così attraente. Dissi fra me e me: accidenti, se un tipo simile può andare a finire in questo modo. E sentì quasi l'impulso di buttare a terra il cappello e di calpestarlo per la mortificazione, come vidi fare una volta dal capitano di un brigantino italiano perché il suo incompetente secondo aveva combinato un pasticcio con le ancore, cercando di fare un ormeggio volante in una rada piena di navi. Mi domandai, vedendolo apparentemente così disinvolto: è stupido? È insensibile? Sembrava sul punto di mettersi a fischiettare. Badate che non mi importava nulla dell'atteggiamento degli altri due.